La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi 31 secondi qui in diretta dagli studi di Radio 24 di Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia come sempre per l'ascolto diretto in podcast e vi annuncia che oggi parliamo di quello che sta succedendo sui mercati e gli sviluppi del Consiglio Europeo da una parte, e vi invio naturalmente come sempre per questo poi anche a Focus Economia con Sebastiano Barisoni subito dopo, perché si è parlato dell'Italia alla conclusione del Consiglio Europeo, sia la Merkel che Renzi, e delle banche italiane, e però la puntata è poi destinata con un ospite a approfondire un tema, perché siccome una delle questioni rilevanti della lettura del Brexit, del casino inenarrabile che si è creato di fronte al fatto che il governo britannico oramai vuole prendere tempo a questo ufficiale mentre sono in crisi sia al vertice del partito Tory che quello del partito Labour, non notificheranno l'articolo 50 e le conclusioni stesse del Consiglio Europeo sono molto diverse dai toni pugnaci di Juncker alla testa della Commissione ieri del Parlamento Europeo, perché si è aperto uno scontro, tanto per cambiare, anche tra Commissione Europea e Consiglio Europeo su chi guida davvero le danze nella trattativa con il Regno Unito, e il trattato all'articolo 50 dice che la guida il Consiglio Europeo. Il Consiglio Europeo si è chiuso comunque rinviando tutto a settembre, quindi sì, rispetto per la decisione del popolo britannico, ma ribadendo che senza notificazione formale non si può fare nulla, e nel frattempo la Gran Bretagna deve continuare a rispettare tutto il pacchetto di norme europee, ma in buona sostanza è il rinvio a un Consiglio Europeo di settembre. Ma uno dei criteri di questa lettura, lo sapete, è quello della protesta antieuropea, perché si rompe l'Europa dell'austerità, l'Europa tedesca, eccetera, eccetera. È un punto su cui battono, ribattono tutti i giornali, anche italiani, anche questo gruppo editoriale. Per carità, io sono minoranza assoluta, poi dopo basta che sentiate Sebastiano Barisoni, che ha opinioni diverse dalle mie. Però oggi, di fronte a uno scritto che è stato pubblicato sul Foglio, mi sono detto che i numeri che sono in questo scritto, da parte di chi l'ha scritto, appunto, sono numeri che vale la pena di riproporvi per farvi riflettere su che cosa davvero significhi questa austerità nei numeri, non come formula, e che cosa stia succedendo nei diversi paesi europei su questo fronte, cioè quello della spesa pubblica e del deficit, per essere chiari. Gli aggiornamenti sulla conclusione del Consiglio Europeo che riguardano l'Italia, perché brevissimamente quella della Gran Bretagna ve l'ho già detto, in realtà è tutto sospeso fino a che non notificano, e comunque ci si rivede a settembre al Consiglio Europeo, riguarda invece lo scambio di battute che c'è stato sia nella dichiarazione del premier germanico Angela Merkel, che poi nella dichiarazione resa dal Presidente del Consiglio italiano in relazione proprio a questa trattativa, di cui ufficialmente la conferma è venuta ieri dal commissario europeo Dombrovskis sul famoso sostegno alle banche italiane, di cui per giorni i giornali italiani sono stati alluvionati di articoli e titoli annunciando alcuni 40 miliardi di euro pubblici, altri più prudentemente sentendo il tesoro spiegandovi che si trattava di una forbice possibile di interventi o di rifinanziare Atlante, ma non si capisce con quali soldi, visto che per il momento non si è spenta la voglia di finanziare Atlante, che ha già 2 miliardi e mezzo dei suoi 4 rotti di capitale che aveva raccolto già impegnati con Veneto Banca e Vicenza, la Popolare di Vicenza, oppure ipotesi di onerosissimi però Padoa Bonds. I Padoa Bonds costerebbero 8.5 punti di interesse alle banche, sì certo trasformabili poi in equity, cioè in capitale, ma significherebbe impiccare una redditività già zero o negativo delle banche a pagare fior di interessi allo Stato. Oppure CDP, ma CDP non c'ha i soldi per fare operazioni di decine di miliardi di euro, perché non ce l'ha free capital da impegnare su questo. Tra l'altro proprio ieri si è formalizzato che CDP partecipa con il gruppo Orvedi all'operazione per Ilva, quindi a maggior ragione altro assorbimento del suo capitale. CDP da solo non basta minimamente. Oltretutto, per l'effetto di questa autoesposizione al morso dei mercati, perché averci rappresentato come in prossimità di un'imminente deroga da ottenere alla direttiva europea sulla risoluzione bancaria, richiesta formale dell'Italia, in coerenza quanto prevede anche la norma, cioè a crisi sistemiche di emergenza tale da dover derogare al fatto che non si provvede più facendo compartecipare gli azionisti, gli obbligazionisti alla risoluzione bancaria, finanziaria, ma attraverso o veicoli predisposti o comunque abilitati dallo Stato a farlo o direttamente dallo Stato, ci ha ulteriormente esposto all'aggressione dei mercati. E in ragione di questo che i titoli bancari sono andati anche più giù degli altri. Sapete che dopo i titoli delle banche britanniche sono stati quelli italiani quelli che hanno perso di più. Allora, di fronte a questo la Merkel oggi è stata chiara e secca. Ha detto: non possiamo cambiare regole ogni due anni, quindi nessuna deroga alla BRRD da parte dell'Italia. Il Parlamento l'ha recepita nel tardo 2015, quindi l'avete appena recepita e quindi non ci sono deroghe, cari italiani. Per il resto, tutto quello che serve per rafforzare il capitale delle banche, ma non la deroga. E il presidente del Consiglio Renzi dopo ha detto: basta parlare di banche, quattro giorni che leggo sui giornali italiani di banche, noi non avanziamo alcuna richiesta di deroga su questa cosa, faremo tutto il possibile, per carità, ma le banche sono solide, eccetera eccetera. Le banche sono così solide che il totale della capitalizzazione delle banche italiane in borsa oggi è uscito sotto i 60 miliardi di euro a fronte di ben 83 miliardi di sofferenze nette, perché quelle lorde sapete che sono 200 miliardi, ma le sofferenze nette da sole valgono 83 miliardi, quindi in realtà noi siamo in una condizione che si è autoaggravata. Però formalmente Renzi, e quindi in maniera impegnativa a nome suo e del tesoro, ha fatto capire che non ha gradito minimamente tutto questo premere dei giornali italiani. La mia domanda è: ma chi gli ha fatto scrivere ai giornali italiani tutta questa storia? Banca Italia da sola? No, perché io conosco direttamente i colleghi che parlavano anche col tesoro. È vero che il più delle richieste di deroga esplicita veniva da Banca Italia e non dal tesoro. Però detto questo, riflettete, cari ascoltatori, sul fatto che di tutto c'era bisogno, questa è la mia opinione, tranne che di esporre anche l'Italia a un nuovo schiaffo in faccia, perché siamo apparsi di fronte agli altri 27 paesi europei, di fronte a Brexit, a questo enorme casino, come il paese che chiedeva deroghe per sé. Ecco, questo secondo me è un errore. Resta la debolezza del sistema bancario italiano, vedremo quello che capiterà. Vi rinvio su questo naturalmente quello che dirà Sebastiano Barisoni dopo di me, sapete che la pensa diversamente, però insomma non proprio una pagina fantastica, ecco, se ci evitavamo questa vicenda era meglio questa mattina nel mio giudizio. Ma andiamo al punto invece che affrontiamo in questa trasmissione, cioè quella dell'austerità. Ripartiamo dalla crescita, dalla solidarietà, questa nuova Europa diversa che secondo alcuni, fino a questo momento minoranza nell'Europa 27, sarebbe la nuova Europa da costruire, quella della mutualizzazione del debito, quella dei grandi progetti di finanziamento a carico soprattutto dei paesi che vanno meglio rispetto a quelli che vanno peggio, naturalmente fondata sull'accusa che la Germania ha volto a proprio vantaggio le regole dell'Unione Europea, che esporta troppo, che ha un avanzo eccessivo della bilancia commerciale dei pagamenti, mentre no, noi gemiamo sotto il tallone germanico. Allora, su questo oggi sul Foglio è apparso uno scritto che a me è sembrato illuminante, perché è preciso, concreto e con i numeri, di un economista e saggista, autrice tra le altre cose di un libro, Il caso Germania, così la Merkel salva l'Europa, che ormai ha 2-3 annetti, però insomma vale la pena di leggere perché è una delle poche cose scritte accurate secondo me su questo tema, al di fuori di ogni propaganda e pregiudizio, ed è con noi per spiegarci appunto che cosa ha scritto oggi su questo tema Veronica De Romanis. Grazie di essere con noi. Buonasera, grazie a voi. Allora, cominciamo a ripercorrere il suo ragionamento su quanto sia vera e fondata questa tesi dell'austerità da interrompere per creare la nuova Europa. Perché non è fondata, secondo lei? Dunque, secondo me l'austerità non è né il problema dell'Europa né anche la soluzione. Allora, non è il problema perché i paesi che considerano che sia il problema, come l'Italia e la Francia, e quindi che vorrebbero fare uno stop all'austerità, in realtà non stanno implementando nessuna austerità. La Francia dal 2009 non rispetta i limiti di Maastricht, è sotto procedura di disavanzo eccessivo e nonostante ciò anche quest'anno ha ottenuto del tempo in più per rientrare su un percorso di finanze sostenibili. La spesa rispetto al PIL è il rapporto più alto di tutta l'Unione Monetaria, ma anche di tutta l'Europa, è supera il 56%, quindi direi che di austerità non mi pare. In Francia proprio non ci sia, ma a mio avviso non c'è neanche in Italia. In Italia la spesa pubblica non fa che aumentare, nel 2015 è aumentata di 895 milioni di euro. Nella legge di stabilità 2016 Il taglio è modestissimo, non più intorno a 360 milioni di euro, e la gran parte sono spese in conto capitale, quindi le famose spese produttive. Di spesa corrente se ne tagliano solo 40 milioni. E se andiamo a vedere un indicatore che ci dà una misura del grado di austerità, che è l'avanzo primario, ovvero le entrate meno le uscite al netto delle spese per interessi, però depurato dagli effetti del ciclo, beh, questo in Italia non fa altro che diminuire, è passato dal 4,2% al 2013 al 2,4% dell'anno scorso, e per quest'anno al 3,1% dell'anno scorso, e per quest'anno è previsto scendere ancora di più fino al 2,4%. Quindi anche che, qui, la misura del che è la misura del fatto che non si sta progredendo verso un miglioramento, ma si sta arretrando. Assolutamente. In più l'Italia, come sappiamo, ha ottenuto margini di flessibilità per 14 miliardi di euro quest'anno, quindi io direi anche per l'Italia parlare di politiche fiscali restrittive mi sembra veramente fuori luogo. Quindi ecco perché non è un problema, a mio avviso, ma non è neanche la soluzione. Perché? Perché in Inghilterra chi ha votato per l'opzione Leave l'ha fatto anche per, tra i vari motivi che sappiamo, l'immigrazione, l'insicurezza, la diseguaglianza, cioè tutti i motivi inglesi, ma l'ha fatto anche perché non ha nessuna voglia di far parte di un'unione dove, in caso in cui bisogna salvare un paese in difficoltà, perché per anni ha tenuto le proprie finanze, chiamiamo così, in disordine, gli inglesi non hanno voglia di metterci i loro soldi. Ricordiamo che l'Inghilterra, dal momento che non fa parte dell'area dell'euro, contribuisce ai salvataggi solo in quanto azionista del Fondo Monetario Internazionale, quindi è una piccola quota rispetto a quella italiana, francese o spagnola che fanno parte dell'area dell'euro, ma comunque si tratta di una quota. Infatti Cameron, le condizioni che cercò di negoziare per sostenere la tesi del Remain fu proprio questa: a febbraio andò a parlare a Bruxelles e chiese proprio di non dover partecipare più agli eventuali futuri salvataggi di paesi in crisi. Quindi dal punto di vista degli inglesi il loro timore è che ci sia poca austerità, poche regole e non troppe regole. L'ultimo esempio che mi viene da fare è la Spagna. La Spagna, lo sappiamo, sono andati al voto gli spagnoli per la seconda volta domenica. Il partito più votato è stato quello di Mariano Rajoy, che ha fatto un aggiustamento pesantissimo, ha dimezzato il disavanzo dal 10,4% del 2012 al 5,1% del 2015, eppure gli spagnoli per la seconda volta lo hanno preferito alle promesse di spesa pubblica, di aumentare la spesa pubblica di Podemos. Podemos nel suo programma elettorale parla di incrementi di spesa pubblica da finanziare con eventuali ricavi derivanti dalla crescita economica. E parlava di incrementi di spesa pubblica per un centinaio di miliardi, non proprio due lire. Sì, ma senza poi ovviamente dare le coperture. Quindi per la seconda volta gli spagnoli, poi ora formare il governo, questa è un'altra questione, è complicato, però per la seconda volta il partito più votato è il partito di Mariano Rajoy, il leader, diciamo, dell'austerity. Quindi questo per dire che una volta eliminata l'austerity non mi sembra che sia questa la soluzione. Le soluzioni secondo me sono altre, sono invece raccontare la verità, raccontare cosa si è fatto in questi anni di crisi, invece di parlare sempre dell'Europa dell'austerity, raccontare che in questi anni di crisi l'Europa invece ha mostrato molta solidarietà. Certo non è facile perché ci sono una moneta, soprattutto nell'area dell'euro, e 19 politiche fiscali diverse, però sono costruiti strumenti in una fase di emergenza, in una fase di difficoltà, che hanno salvato 5 paesi e ne stanno ancora salvando. Il terzo salvataggio, la Grecia, e Cipro è ancora sotto salvataggio, e questo con i soldi dei contribuenti europei. Quindi la solidarietà c'è stata, certo non possono essere dei regali, non possono essere dei trasferimenti, perché sappiamo che i trattati vietano la no bailout clause, l'articolo 125 del trattato che vieta i trasferimenti tra stati, sono dei prestiti, quindi ci sono delle condizioni. Se queste condizioni noi le chiamiamo austerità, beh, questo forse è stato un po' un alibi che hanno usato i politici nazionali per nascondere invece dei loro problemi interni. Allora, a me questi sembrano, insomma, ragionamenti fondati sui numeri, che ovviamente, mi rendo conto, cari ascoltatori, confliggono con quello, lo vedo dai messaggi che arrivano, ma lo so perfettamente, stando un anno in questa radio, ho anche misurato il polso di come è cambiata la vostra opinione, di molti di voi. Naturalmente non è che chi manda i messaggi è un campione rappresentativo, però il polso è molto cambiato. Oggi la maggior parte degli italiani, tantissimi italiani, non dico la maggior parte perché questo sarebbe errato, non ho gli strumenti per dirlo, tranne che abbiamo sentito proprio la sera in cui c'erano gli exit poll che arrivavano da per Londra, per il voto di Londra, un sondaggio proprio alla 7, commissionato dalla 7, quindi mandato in onda Enrico Mentana, che faceva vedere per la prima volta come gli italiani che abbiano fiducia nell'Unione Europea fossero scesi anche in Italia sotto il 50%. Ma detto questo, moltissimi tra voi, cari ascoltatori, sono convinti invece che non sia vero quello che vi ha appena detto Veronica De Romanis, cioè che, in altre parole, la simmetria di chi va meglio nell'euroarea, limitiamoci a questo, 19 paesi dell'euroarea, e chi va peggio, cioè come noi, derivi dal fatto che ci sia un interesse nazionale che viene messo in testa, anteposto a tutto nell'interpretazione delle regole, anzi nella codificazione delle regole, come il BRRD e il principio del bail-in bancario al posto dei denari pubblici per tenere in piedi le banche e così via, al servizio di un'egemonia. L'egemonia del paese più forte, cioè la Germania. Questa è la storia che molti mi raccontano e a cui molti di voi avete dato fiducia. Allora, tentiamo, dopo il minuto di interruzione sul traffico stradale, di affrontare, per così dire, per le corna, questa questione. Cioè, qual è il vero fondamento di questa accusa? Tra un minuto. La versione di Oscar. Allora, torniamo, sì, ovviamente, perché siamo tornati a questo per ragioni oggettive, non certo per la mia opinione, e diciamo che gli SMS si dividono in due categorie, a voler semplificare. In primis quelle tra voi che continuano a inneggiare come comprensiva, dando comprensione alla scelta del Brexit, dicendo come si vede l'Unione Europea non offre buone ragioni. E molti di voi dicono si è visto, la Commissione, il Consiglio spaccato, passerà l'intera estate e rimarremo tutti esposti al ballo. Ovviamente molti di voi ricordano che però anche la politica britannica sta dando una pessima immagine di sé, e sono d'accordo a dire la verità, perché comunque, anche se alla testa del partito del Remain, Cameron come Presidente del Consiglio doveva aver predisposto un piano operativo per affrontare la vittoria del Brexit. Questo piano operativo non c'è, ma la politica britannica sta facendo un grande balletto che durerà a lungo, secondo me, per il cerino in mano. Chi la fa sta notifica? Perché poi si becca le conseguenze del PIL che decresce, perché nel frattempo le imprese e le banche a Londra non possono aspettare mesi, a differenza che in Italia non incamerano risultati negativi, tentano di precederli e quindi prenderanno delle decisioni che avranno delle conseguenze sull'economia britannica, come ci sarà anche sull'immobiliare. Allora, netto, questo è il primo filone. Il secondo filone, come immaginavo, davo per scontato, è fatto di colorite espressioni all'indirizzo di Veronica De Romanis, che è con noi, e della tesi che vi stiamo spiegando, che non vi piace, molti di voi non piace, lo so che non vi piace, è molto comodo dire che la colpa è dei tedeschi, per così dire. Vogliamo un secondo, Veronica, affrontare questo argomento per le corna, perché ti ci dovrai certo confrontare anche tu ogni giorno, come capita a me in questi anni. Okay. L'opinione che ti sei fatta è: ma com'è che così tanti italiani si sono convinti di questa tesi? Forse perché ha fatto comodo in questi anni ai politici fare un racconto un po' parziale della realtà. Ripartiamo dal caso greco. La Grecia per 10 anni cosa ha fatto? Ha preso a prestito, infatti il disavanzo è aumentato fino al 15%, vi ricordate, avevano anche toccato i conti, e con questi soldi importava beni, quindi è cresciuta con un modello di sviluppo insostenibile, perché prendeva prestito e comprava prodotti che in realtà non produceva, perché produce molto poco di quello che in realtà vuole consumare. È arrivato un punto in cui i mercati hanno detto basta, non ci fidiamo più, chiudiamo l'accesso. A quel punto la Grecia ha dovuto chiedere aiuto agli altri paesi, e in quel momento lì sono state chieste delle condizioni in cambio dei finanziamenti. Ora, è importante questo da raccontarlo, perché questo dimostra come, quando, come dicevo prima, un paese ha una politica fiscale, diciamo, conti non in ordine, questo ha un impatto sugli altri paesi e crea instabilità. Ora, per la Germania la cosa più importante non è come tu fai la tua politica fiscale, ma l'importante è che contribuisci a creare stabilità in un'area in cui viene condivisa la moneta unica. Quindi l'obiettivo è la stabilità. Come tu ci arrivi a questo obiettivo? Alla Germania importa poco e ripeto, se tu hai dei conti in disordine, sono i mercati che ti impongono l'austerità, prima ancora della Germania. E questo è interessante perché si collega appunto alle dichiarazioni di cui parlava lei oggi, Renzi, diciamo lo scambio di battute tra Renzi e la Merkel. Merkel. Quando Renzi ha detto alla Merkel i primi a non rispettare le regole sono stati proprio tedeschi nel 2003, quando sforarono il famoso 3% insieme alla Francia. E ha aggiunto questo... e Berlusconi fu gentile e bravo a consentirvelo. Beh, all'epoca il presidente dell'Ecofin di turno era Tremonti e poi c'era il presidente della Commissione Europea Prodi. Comunque è interessante che abbia utilizzato questo esempio perché in realtà è un esempio, io penso, sbagliato da fare con la Merkel, perché non solo la Merkel lo sa bene quello che è successo, ma lo condanna, considera che sia stato un grandissimo errore derogare alle regole e pensa che quello che è successo durante gli anni di crisi sono proprio gli eccessi di finanza pubblica per regole non rispettate. Infatti ricordiamoci poi che se le regole sono state allentate in una prima riforma del patto di stabilità e crescita nel 2005, nel 2011, a seguito proprio della crisi, sono state di nuovo ristrette e rese più severe. Come? Con il famoso fiscal compact. Ma qui va chiarito, il fiscal compact non è un'idea tedesca, è un'idea della BCE. E questo bisogna dirlo, fu la BCE che voleva intervenire comprando titoli di Stato, che come dicevo prima... bisogna evitare che ci sia un'unione dei trasferimenti, ma per mettersi in pancia titoli di Stato e quindi rischi di altri Stati era necessario rassicurare una parte dei cittadini europei, certo soprattutto tedeschi, che gli Stati avrebbero rispettato una serie di regole. Quindi fu fatto uno scambio tra fiscal compact e diciamo politiche monetarie espansive. Se oggi abbiamo il quantitative easing, l'acquisto che fa la BCE di anche titoli italiani, e anche perché abbiamo il fiscal compact. E per evoluzione di quel prima pietra angolare che fu posta allora. Esatto, quindi se noi l'Italia risparmia quest'anno 6 miliardi di spesa per interesse, è per tutta questa architettura che è fatta sul fiscal compact, è fatta sulle politiche della BCE, è fatta sull'unione bancaria, quindi sono tutte cose che si tengono insieme. Ricordiamo però che il fiscal compact non è queste regole rigide che ci raccontano i nostri politici, che bisogna ridurre di un ventesimo ogni anno, quindi... fisso, qualunque cosa avvenga. Bisognerebbe leggerlo, si scappa, che mi rendo conto che è piuttosto noioso, ma se uno lo sa si rende conto che ci sono diversi criteri da rispettare, basta rispettarne uno solo, quello dell'un ventesimo è uno dei criteri, ma ce ne sono altri due, che è quello, ora senza entrare troppo nei dettagli, ma ce ne sta uno che riguarda l'effetto del ciclo economico, un altro che guarda il forward looking, cioè si guarda al debito che io avrò nel futuro e non quello che ho avuto nel passato. E l'Italia in realtà lo rispetta, e non solo ci sono vari criteri, ma ci sono varie deroghe. Esatto. L'Italia, le famose guide linee che sono state pubblicate nel gennaio dello scorso anno, non sono altro che deroghe che stanno nel fiscal compact, nulla di nuovo. Quello che ha fatto la Commissione è semplicemente fare una griglia per renderle un pochino più comprensibile, per renderle più trasparenti. Ma se oggi l'Italia ha 14 miliardi di margine di manovra di bilancio è perché lo permette il fiscal compact. No, no. Quindi, ma poi sottolineiamo, tanto sono così non rigide, ma leggono la dinamica di quello che avviene, questi criteri, che nel solo governo Renzi, da che c'è Renzi in carica, abbiamo avuto più di un punto e mezzo di PIL di flessibilità garantito all'Italia dalle regole europee, quindi esatto. non proprio e poca comunque, roba. Mi lascio aggiungere un'ultima cosa, si parla tanto della Germania cattiva che impone l'austerità, ma quando si è negoziato lo scorso anno con il primo ministro Tsipras il terzo pacchetto di salvataggio per la Grecia, i più agguerriti erano proprio i paesi che sono stati salvati, quindi la Spagna, l'Irlanda, il Portogallo, che volevano assolutamente condizioni severe. Qui non c'è solo la Germania, i soliti paesi del nord virtuosi, ma ci sono anche i paesi che hanno fatto l'aggiustamento, che hanno pagato dei pesanti costi politici. Perché è che a quel punto, avendo fatto l'aggiustamento e avendo pesato il prezzo anche perdendo le elezioni, dicono non è che se lo abbiamo fatto noi, agli altri adesso diamo possibilità diverse. Allora, io intanto ringrazio Veronica De Romanis, tra le poche e i pochi che condividono questo difficile compito di richiamare i numeri e la realtà rispetto alla propaganda che viene fatto sull'Europa dell'austerity, i nostri conti pubblici, la spesa tagliata fino a rosicchiare le ossa dell'apparato pubblico, e naturalmente so che non vi abbiamo convinti, ma continueremo. Grazie Veronica De Romanis, continuate con la 24, appuntamento alle 8:15 con me Alessandro Milan domani mattina, attenti a noi due.